You've had for about a week and a half. Banca d'Italia. Per circa una settimana e mezzo avete letto sul sito di Banca d'Italia i resoconti dettagliati riguardanti questa vicenda. Avete visto che Banca d'Italia ha fatto tutto quanto era possibile fare, in modo appropriato e nei tempi giusti. Ma se ci sono dei dubbi, c'è anche il rapporto dei rappresentanti dell'FMI che si trovavano in Italia. Il Fondo Monetario ha pubblicamente affermato che Banca d'Italia ha assunto iniziative tempestive e adeguate, nei limiti del quadro normativo, per risolvere i problemi di MPS. Il controllo è stato serrato e l'azione di vigilanza si è intensificata con l'acuirsi dei problemi del monte. Guardando oltre, sarà importante per MPS andare avanti con i suoi piani di ristrutturazione, in modo da ristabilire lo stato di salute della banca e la sua redditività. Non dimenticate che sono stato io a firmare le ispezioni ed è stata Banca d'Italia a fornire la maggior parte dei documenti ai magistrati. Il punto è che se c'è una frode, normalmente i controllori non hanno poteri investigativi o della giustizia, si occupano della vigilanza. Infine, non voglio entrare nel discorso delle elezioni italiane, ma andrebbe scremato ciò che si sente e si legge, considerandolo come normale chiacchiera nel periodo elettorale.